pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tu pincio vedi dalle 17, 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì dalle 17 sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, la esquina del sur, Tuti Frecuencia de Radio Onda Rosa. Ben trovati, 17.07 minuti, una nuova puntata dell'Eschina del Soul. Oggi addirittura avremmo potuto cominciare puntuali, ma insomma, Attica Blues ci può rubare 5 minuti. Ma no, nel senso che stiamo facendo grossi progressi, ecco. Ma sì. Ci siamo, sì, ora sì, ma sì, dicevo, dai. Dai, 18 minuti. Mari, tu pegni, mari pulla mien, mari con puce. Ciao ragazzo, come stai? Come va, Victor? Tutto bene, tutto a posto. Grande. Oggi una bellezza. Toda gioia, toda bellezza. Sta andando bene il brasiliano in questo sì, periodo. Sì, niente, tanto si commenta. Che... Si fa fatica per i lussofoni che imparano o che sanno lo spagnolo imparare l'italiano perché si fa quella mescolanza nel cervello, oppure sì, per gli ispanofoni che ne so, sanno il portoghese e devono imparare l'italiano, sanno l'italiano e devono imparare il portoghese. È pieno di barzellette, insomma, su figure pessime di italiani in paesi ispanoblanti e figure pessime di ispanoblanti in questo piccolo paese, sì. Ma ci sono proprio collezioni terribili. Comunque va bene, oggi un'altra bellissima giornata di sole, sì, e noi sì, sappiamo perché. Che dirvi, oggi andremo un po' con calma, parleremo di tante cose, abbiamo una trasmissione molto piena in cui festeggeremo ma anche no, e allora diciamo, insomma, andiamo a fare un piccolo riassunto prima di ascoltare un po' di musica di quello di cui parleremo oggi. Inizieremo tristemente con la morte di Bau Elizabeth, insomma, abbiamo fatto girare dal blog della rete, dalla nostra pagina Facebook, insomma, questa questione che ancora non si è capita molto bene. Sappiamo solo che o la polizia o peggio ancora delle guardie private di un comprensorio hanno ucciso con un colpo alla testa Bau. Bau apparteneva a questo loft, quindi apparteneva a questa comunità che era in recupero territoriale, in un posto che, come capita spesso, ahimè, non è solo battuto da chi recupera il proprio territorio, ma spesso si trova accanto la multinazionale di turno, piuttosto che il condominio, appunto, così il piccolo sì, comprensorio. Sì, insomma, le case dei ricchi, più la cortina un po' di turno, capito? Non è che lì in spagnolo si dice condominio, ma stiamo parlando di questi comprensori di case di un certo livello in zone da paura, dove non è che vanno tutti, e di campeggiatori. Quindi una situazione da capire e di cui parleremo tra un po'. Torneremo poi a parlare dei prigionieri del cosiddetto estallido social. Impariamo questa parola perché la sentiamo spesso, estallido è l'esplosione. È proprio la deflagrazione. La parola per noi sarebbe rivolta popolare. Esatto. Perché questo dell'estallido sociale è un nome che lo ha fatto lo Stato. Perché? Perché vuole pensare che dal nulla di botto si scoppia. E invece noi sappiamo che lì compagni e compagne, insomma, lottavano per preparare quest'humus da tanto. E poi sicuramente la miccia è stata messa dagli studenti delle secondarie. Parleremo di questo perché, come avete sentito nella scorsa puntata, Manuel Sangüesa ha visto di nuovo in maniera molto vile rimandare senza motivi di sorta di un mese il proprio processo, ma è vero pure che questi giorni, ovvero il 16, avremmo aspettato l'udienza di San Antonio, dove invece, ahimè, c'è una situazione infinitamente grave. Infatti Claudio, Antonio, Patrizio, i quattro compagni che sono lì detenuti, hanno cominciato a dare segni di mal di gola, di febbre, per scoprire poi di essere positivi al Covid, come praticamente tutto il braccio e parecchia parte del carcere dove sono detenuti. Che significa questo? Significa intanto che l'infamia è arrivata dove voleva arrivare, cioè che non dare, stiamo parlando di compagni che sono appunto agli arresti domiciliari, e questo, il rifiuto dopo la richiesta inoltrata più volte di arresti domiciliari, ha portato a questo punto, e quindi noi sappiamo. Sì, prima la befa e dopo il danno in questo caso, cioè la befa di non dare i domiciliari quando corrispondevano, ora il danno di averse preso il Covid per le condizioni che... È forse un'altra beffa, ma insomma questa ce la racconterà Geraldine, che come sapete, diciamo, avremo l'altra volta, è partita per il Cile. E insomma, quindi chiaramente non possiamo fare a meno di chiamarla, di farci raccontare insomma le manifestazioni a cui ha partecipato oggi. Lei è stata anche per motivi di movimento, perché ahimè non è semplice, è stata poco tempo a Santiago per poi andare a San Antonio, che è anche la sua terra, dove ha tutta una serie di cose da fare oltre la militanza. Quindi verso le 6 la chiameremo insomma per farci raccontare questa cosa, e chissà, lì ci sarà una sorpresa. Speriamo, dai. No? Però insomma, diciamo che... una delle buone sorprese. Sì, e poi abbiamo imparato che questa rabbia la possiamo anche trasformare in convinzione, in concretezza di continuare a stare qui e parlare di questo. Ahimè, ricordiamo che poi quando parleremo dei prigionieri di San Antonio non parleremo altro che delle condizioni in cui stanno tantissimi prigionieri. E dico prigionieri e prigioniere perché vado oltre quelli della rivolta cilena, e vado anche a me oltre quelli del Cile, e quindi sono un po' tristemente le condizioni che si vivono in tutte le carceri. Sì, pensavo proprio questo rispetto alla situazione del Covid che è scoppiata e ora, della quale ne parleremo, stessa situazione che si vive con Italia, no? Io sì, tanto, infatti. Tanto parlato qua nelle dirette, nelle trasmissioni di Radio Onda Rossa per capire, no? Per fare dei ponti e vedere come le problematiche e come il carcere mi sa ovunque nel mondo il posto dove più si violano i diritti umani attualmente in questo mondo. In ogni paese il carcere purtroppo rappresenta questo. Sì, insomma, questo lo dico anche perché, come sapete, questa è una settimana, anzi sono giorni di mobilitazioni per quanto riguarda i carceri nostrani, le carceri nostrane, di sostegno a detenuti e detenute che hanno avuto il coraggio di denunciare ciò che hanno subito e che si trovano comunque nelle mani dei carnefici, quindi comunque non bisogna mai togliere l'attenzione. E insomma, adesso in questa parentesi la apro perché credo che sia giusto poi parlare di carcere in maniera più ampia possibile, nella misura in cui è un'istituzione che noi non vogliamo in nessun posto del mondo. E insomma, vi esorto ad andare a sentire appunto la trasmissione che è stata fatta mercoledì mattina presto, le trasmissioni e gli appuntamenti che ci sono in giro, perché sono importanti ed è importante che si moltiplichi la presenza e anche il tantam rispetto a questa informazione. Detto questo, che dici, Victor? Ci fai subito sentire, ci proponi subito qualcosa da DJ? Una cosa strana, mi piace questa cosa. Dici questa cosa strana. Una cosa straniera, perché noi sappiamo per esempio che la murga a Roma è una murga argentina. Yes. Però esiste una murga, diverse murghe, però la che mi piace di più è la murga uruguayana. Si dice uruguayana? Sì, uruguaya, uruguayana. Dico questo perché la murga è un coro di carnavale, la gente canta e balla, è una cosa bellissima. Però ho trovato una cumbia medio son cantata per una murga uruguaya. Ascoltiamo. Vediamo che esce fuori. Viejo, vai, vai. Mercado Modelo. Si yo quisiera escribirte una canción, no daría para volcarte entre líneas, para marcarte entre rimas. Dijo Mercado Modelo, tomate maduro. Palabras que lleva el viento buscan cobijo en tus muros. Buscan cobijo en tus muros. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Viejo mercado modelo rojo, tomate maduro. Oh, palabras que lleva el viento buscan cobijo en tus muros. Productor a lechuza, el changador hasta el chango, viviendo mil madrugadas en los delirios de un tango, en los delirios de un tango. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Viejo mercado modelo rojo, tomate maduro. Oh, palabras que lleva el viento buscando cobijo en tus muros. Oh, oh, oh, oh. Boliche, vino, guerrero, sino café y media luna. Unos ganando monedas, otros guardando fortunas. Otros guardando fortunas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Viejo mercado modelo rojo, tomate maduro. Oh, palabras que lleva el viento buscando cobijo en tus muros. Oh, oh, oh, oh. Lo gigante en la entrada que se detuvo en el tiempo. Pasaron varias heladas las jardineras al viento. Las jardineras al viento. Oh, oh, oh, oh, oh. Viejo mercado modelo rojo, tomate maduro. Oh, palabras que lleva el viento buscando cobijo en tus muros. Oh, perros del vagabundo, las corridas del feriante, las chatas con rulemanes siempre miran pa' delante, siempre miran pa' delante y dice: así lo quiero mi gente sin olvidar lo vivido. Oh, porque un pueblo sin memoria le importa un bledo el destino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cha, cha, cha. Viejo mercado modelo rojo, tomate maduro. Oh, palabras que lleva el viento buscan cobijo en tus muros. Beh, indubbiamente era un bel mischione, no? E poi soprattutto, scusa, com'è questa questione di bombo e platiccio? Perché una tiene solo il bombo, la altra bombo e platiccio. Il famoso bombo e platiccio. Soprattutto nella murga, ho dovuto parlare di platiccio. Nella murga uruguayana c'è questo che è una batteria disarmata, dove suona platillo, caja e bombo. Il platillo así sobre el cajón. No, ah, no, okay, con le due mani, così, come il carnavale. Ah, ok. Perché è un carnavale. Il carnavale d'Uruguay è il più lungo del mondo, un mese di carnavale. Sì, sì, tutto a febbraio. A me sto Uruguay, mi sa che stanno un po' avanti questi dell'Uruguay, eh? Sì, infatti. Sì. Cioè io sento, peccato che però non fa caldo lì. Sì, non fa caldo? No, sì, sì. Però il mare è freddo. No, il problema è che c'è le spiagge buone sono... No, non troppo fighette, però Punta del Este, per esempio, ma noi fighetti famo no, scappare, che ci frega. Infatti dovremmo fare prima, ma infatti dovremmo fare tabula rasa a Punta del Este, riappropriarcela e sì, e fare una città popolare come non lo è ora. La marcia camion, credo che si chiama, il proprio carnevale. Così il ritmo fatto da, come diceva, il tamburo, diciamo il bombo, il platillo. La marcia camion è un tipo di ritmo che un sarebbe un tipo di ritmo pum, che fanno pum, pss, pum, pss. Pum, pss, pum, pss, pum, sì, sì, non te dico nada. Qual è la base sulla quale si, giustamente si basa buona parte della musica popolare uruguayana, diciamo, prodotto da questa strumentazione. Anche con il candombe che suona adesso di fondo, che sarebbe palagramiglia di Edu Pitufo. Rimettilo, Lombardo. Dai, così lo... Mettela da capo, ah sì, Edu Lombardo, palagramiglia. Aprender. Sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja, el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Chico repique y piano en la bailando se delira, mirando Juan y Ancina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Chacha, suenan los tambores, por cotón, chacha, por Isla de Flores, cantón de sí, del Uruguay. Allora, 17:23 minuti, cominciamo a entrare un po' così nei temi della trasmissione, perché diciamo alcune sono piccole notizie che vogliamo aggiungervi alle storie che vi abbiamo raccontato per tanto tempo, che ormai avete imparato, altre ahimè sono tristi o meno tristi novità che andremo invece ad approfondire. Intanto io vi voglio ricordare, perché abbiamo parlato per tanto tempo di Maria Cugna, è stato proprio così una storia che abbiamo seguito da vicino, perché credo, ci dicono anche i compagni dal Cile che la storia di Mario è stata veramente emblematica, perché è stata intanto all'inizio della rivolta, quindi era appena credo il mese di novembre, la violenza repressiva della polizia, ma veramente la violenza era palese e chiara, e sicuramente la storia di Maria Cugna è stata proprio emblematica di questo alto livello di violenza. E vi vogliamo segnalare che appunto era il 23 ottobre, pensate, proprio un attimo dopo, sì, veramente. Dal 18 al 23, 5 giorni dopo l'inizio della rivolta, e appunto ve lo ricordate, Maria Cugna, un operaio, sta assistendo così a una barricata a cui neanche partecipa, viene completamente travolto dalla polizia, che lo prende, lo arresta, lo picchia e lo porterà in ospedale. In ospedale verrà picchiato un'altra volta. Si fermeranno solo quando sentiranno che il cranio, che a forza di prendere a calci il cranio di Mario era ormai morbido. Questo li spaventerà e loro si fermeranno. Mario viene infatti dichiarato con morte cerebrale e, come sapete, si trova tuttora a letto, assistito dalla famiglia, in stato praticamente vegetale. Ha una stomia, ha una tracheotomia, deve essere continuamente ventilato, e questa storia ve l'abbiamo raccontata perché proprio è stato un carico che ci siamo presi noi della rete di uscire dai territori Mapuche, laddove anche i Mapuche ci hanno indicato che questa rivolta era una rivolta insieme, in cui due popoli si avvicinavano, no? E quindi di partecipare come potevamo a aiutare la famiglia di Mario. Ahimè, arriva il Covid e capite bene che comunque anche poter mandare giù dei soldi per garantire un condizionatore che secchi, asciughi l'umidità dell'inverno e rinfreschi Mario d'estate, dargli un clima costante, che lo aiuti nel cambio della tracheostomia, che non sempre è facile trovare, tant'è vero che l'ultima volta Mario ha rischiato un'infezione. Questo è quello che sta subendo Mario, e ci dicono che a marzo verrà tre carabineros verranno formalizzati, cioè gli verrà notificata una denuncia per questa aggressione. Vogliamo ricordare così che insomma un articolo riguarda questa diciamo a questa iscrizione nel registro degli indaganti dei Carabineros sarà a marzo, ma c'è sul nostro blog appunto un articolo che abbiamo postato ieri, di cui vi voglio leggere solo le ultime righe per ricordarvi di che cosa stiamo parlando. Questo accadeva a Mario 5 giorni dopo l'inizio della rivolta, il 18 ottobre 2019. Il caso di Mario è stato uno dei primi casi di dimostrazione della brutalità poliziesca nel mezzo del denominato stagido social, che secondo diversi registri ha lasciato un totale di 460 lesioni oculari, quasi 200 denunce per abuso sessuale da parte della polizia, 900 per tortura, più di 30 omicidi, casi che si continuano a ripetere e che negli ultimi giorni hanno lasciato 3 morti causate dalla polizia. Questo è quello che continua a succedere in un Cile che invece viene azzittito dalla così, dalla pruevo, non appruevo e dalla nuova Costituzione. Sarebbe bello vederlo nella quotidianità delle strade, che questo Cile sta cambiando, e non solo nella carta che ancora deve essere scritta comunque di questa nuova Costituzione. Quindi noi volevamo ricordare anche Mario, mandargli nuovamente un saluto a lui, alla famiglia combattente, alle donne combattenti veramente di quella famiglia, che hanno intrapreso un percorso in cui non si sono mai fermate e sono arrivate finalmente a riuscire, chissà, a intravedere forse un pochino di giustizia per sì, quella che se vuoi aiutare la famiglia di Mario, adesso è una campagna è ancora disponibile sulle reti sociali. Non so, io ho visto l'informazione nel Cile Desperto Italia, Cile Desperto Roma, in questa pagina stanno ricevendo donazioni, non so, qualsiasi aiuto va benissimo per il compagno. Oh sì sì, tutto quello anche che viene fatto in merito. Comincio un altro percorso, come diciamo sempre, è importantissimo vincere queste battaglie legali, no, attraverso le istituzioni cilene, che sappiamo sono totalmente di parte. Quindi per la famiglia del compagno Mario qua comincia veramente un altro percorso che accompagneremo, di cui vi terremo aggiornati sicuramente, perché sarà dura sicuramente a partire d'ora, però ci abbiamo, penso, già, non so se il capo d'accusa vero e proprio, però si comincia almeno con l'idea, penso, di avere un po' di giustizia. E già questo non era scontato. E dico un po' perché, prima, che non era scontato in un caso o nella situazione del Cile, lo diciamo, credo che non ci vuole spiegare perché. Non diciamo niente di nuovo. Proprio. E sarà duro, però ci vuole, sarà un po' di giustizia, perché nessuno purtroppo gli potrà ridare la vita che ci aveva Mario prima. Lui è stato ridotto in una situazione che è diventata difficilissima non solo per lui, per tutta la famiglia, ovviamente per la condizione economica della famiglia, eccetera, eccetera, senza nessun tipo di aiuto, ovviamente, da parte dello Stato, che lo ha ridotto a questa situazione. Quindi importantissimo per avere un po' almeno di giustizia questa terrena, questa che fanno gli uomini e le donne dopo queste schifezze, ovviamente. E anche perché io credo che giustamente in questo caso la famiglia cerchi una cosiddetta reparazione. Di quello si tratta. Sappiamo, certo, che Mario non ha ricevuto niente dalla sanità pubblica cilena, e che per ottenere qualcosa l'avvocato ha dovuto smuovere i mari e i monti per ottenere quello che Mario dovrebbe avere di diritto dalla salute cilena, che pubblica non è, e questo è ciò che significa non avere, o che comunque quel poco rimasto che dovrebbe assistirlo era inesistente, era inappropriato, non era all'altezza. Insomma, come abbiamo sentito, c'è voluto veramente che l'avvocato minacciasse e muovesse mari e monti, e così ci può essere una base da cui poi la famiglia, insomma, può occuparsi tutto il resto. Così come sappiamo che molti dei medici, dei fisioterapisti, logopedisti che stanno assistendo Mario lo fanno in maniera assolutamente volontaria, perché così accompagnano coloro che sono rimasti lesionati dalle violenze della polizia. Perché lo diciamo? Qui abbiamo letto di feriti oculari e Mario Acuña, sono i due estremi. C'è chi ha perso un occhio, c'è chi li ha persi tutti e due, e c'è Gustavo Cadica che li ha persi tutti e due. C'è Fabiola Campigiai che usciva dal lavoro e non potrà vedere sua figlia crescere, perché uscendo da una porta si è vista arrivare un lacrimogeno in faccia che le ha distrutto le ossa del viso, l'ha fatta diventare completamente cieca. Non c'è neanche bisogno di essere militanti, bisogna semplicemente essere dei cittadini. e da questo poi inizia la scala di valori, non so come dire, di un Cile assurdo. Sì, un Cile assurdo che dopo il danno che provoca la repressione dello Stato ti lascia così, con una sanità praticamente privatizzata nella sua totalità, quindi uno non sa veramente cosa fare. Per questo dico, uno si trova veramente ridotto in una situazione molto difficile, perché lo Stato non se ne occupa, non si accolla niente, salvo la repressione, che quella la dispensa veramente di una forma abbastanza generosa, purtroppo. Tu sei troppo buono per avere una canzone arrabbiata, vero? Infatti, è troppo spirituale, positivo. Sì. Questa canzone, per esempio, so io che sono marcia. È la lotta contro l'odio, sarebbe l'amore. L'amore profondo. Vedi, sempre, lui sempre non ce la fa. È troppo caruccio, sì, mi ha scattato il fricchettone perché mi ha comprato sto ragazzo, però ecco. Io ho una dopo, che è l'opposto. Allora, tu metti quelle che parlano d'amore e io metto quelle che parlano di odio, va bene? Va bene, perché per equilibrare. Anche una canzone ma che non si perché chiama io, violenza. Perché voglio dire, ogni cosa ha il suo opposto, quindi è inutile negare che esista. Per ascoltare tutte le opinioni. Io questi Carabineros li odio e con sorrisa y amor le mando una canzone de odio, capito? Sì. In questo senso. No, ma penso che ascolterai tu delle opinioni qua per favore. Si scivola dalle scale. Cambio la canzone. Io odio la polizia. Io odio la polizia. Questa canzone è per la polizia di merda. Dai. No, così ti voglio, arrabbiato. Questa è la vera murga uruguaya, essa è. Agarrate Catalina, poi penso il non plus ultra. Chiamano a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo. Infierno, mi padre chorro, mi madre puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad. Soy el tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura. Y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se le encarriló. Está tirando medio en la gamba leña un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta me dieron justo en el corazón. Insomma, sì, la mura uruguaya ha la questo sua, sì, diciamo, sarebbe si autodetermina quasi, da sì, solo l'esempio migliore dire. Agarrate Catalina, diciamo, non la più tradizionale, però sì la murga più for export dell'Uruguay. infatti direi è stata la prima veramente che è uscita dall'Uruguay per fare dei tour ovunque, sono venuti qua in Europa, non so, guarda, credo che non sbaglio al dire che sono arrivati pure nel Giappone, ovviamente hanno girato tantissimo Sud America, sono venuti pure qua. Sì, sì, per questo dico, hanno fatto dei tour europei, per questo ovviamente io racconto tutto, sono stati anche criticati, no? Dalla vecchia guardia tradizionalista murghera, perché questi che fanno una cosa per vendere all'export, all'estero, non è la vera murga, comunque non è proprio così, sai, vabbè, sì. Quei cazzi un po' scazzi un po' della scazzi generazionali, sì, un po' dell'ambiente, un po' la tragedia di questo mondo, infatti di non capire come il mondo va avanti e il tempo era così, e in questo caso in collaborazione con No Te Va a Gustar, una delle più grandi band uruguayana di rock, roba di stadi da 20.000, 30.000 persone ogni volta che suonano, o almeno così era fino a che il Covid lo permetteva, in una canzone che parla, o in una murga uruguayana che parla della violenza in generale. Per chi è interessato o interessata, andate a cercare il testo, La violenza, bellissimo. Agarrate Catalina, perché racconta una storia di violenza, veramente, di come può, o a quali livelli può arrivare la violenza e cosa può provocare nella società. Tutto questo così per dare un contesto a quello che abbiamo ascoltato, che insomma... Se vi interessa. Sì, tra l'altro diciamo che adesso questo pezzo di Agarrate Catalina è un po' datato, però diciamo queste murghe, a parte poi in Uruguay c'è un festival della murga in cui deve essere pazzesco comunque, che ci sono tutte le murghe che si confrontano e poi c'è un vincitore, però è tutto molto popolare, capito? Per me la murga... Niente a che vedere con Sanremo, ecco, no, non stiamo parlando di questo. No, prima perché esatto. Fa parte del carnevale popolare esatto, uruguayano. Prima non sia mai che il contesto tocca. È quello, non si tratta di una roba istituzionalizzata. E che comunque tu diciamo adesso chi capisce il testo l'ha capito, ma la murga è un po' quell'opera giullaresca di fare ironia esatto, proprio sulla politica, sul personaggio di turno, sulla questione di turno. Beh, devo dire che insomma in Uruguay io ho visto murghe formate da 30 maschi che per esempio cantano una questione sulla violenza di genere, e devo dire che l'ho trovato. Allora, intanto uno non lo dà per scontato, no? Che si assuma la questione di genere, una murga, insomma, magari i gruppi musicali facessero ste cose. Dopodiché quello che io ho capito è che l'ascolto, allora, che è come se qui un gruppo di pizzica salentina scrivesse una pizzica che fa girare per tutta la Puglia contro la violenza di genere. Credo io che sarebbe un mezzo pazzesco di far arrivare alla tradizione, quindi spesso quella più attaccata a dei valori patriarcali, di far arrivare un messaggio invece forte, sì, rispetto a una cosa, no? Forse credere. Da loro se lo farebbero di, perché poi c'è sempre questo problema. Quindi devo dire che io ho visto questo concerto live in cui questa murga cantava questi 10 minuti, poi perché insomma certe poi durano 7-8 minuti, perché hanno proprio dei testi molto elaborati, c'è una voce solista, poi c'è il coro, a volte un po' attuano. Sono sempre mascherati, quindi anche la maschera, il trucco del viso... Allora, non è mai una maschera di Arlecchino, è sempre una maschera da vecchio politico incancrenito, quindi con sta portaborsa e un po' la faccia da uno sferato, piuttosto che no, da giovane operaio, quindi notevole. Cantavano questo brano dove a un certo punto è sceso il silenzio della serie, stiamo tutti a ascoltare questo testo molto di più che tutti gli altri, perché è... E poi dopo scatta l'ovazione. Allora io penso che quelli sono stati 10 minuti che hanno insegnato a quel popolo molto, no? Nel sì, senso sì. Che questi poi sono veicoli tradizionali di comunicazione di una potenza, credo. In Uruguay è importantissimo questo ruolo della murga, perché come hai detto molto bene, ci vuole e ci si aspetta dalla murga, di ogni murga direi, la sua critica sociale di quell'anno, perché da febbraio o da marzo a febbraio, no, che trascorre tutto l'anno, quando si arriva all'altro carnavale tutti vogliono ascoltare cosa dicono le murghe su quello che è accaduto giustamente in quell'anno in Uruguay, e devono essere per forza, perché così di quello si tratta, la murga deve essere critica politicamente, l'ho definito benissimo Marta come una opera giuglaresca, io infatti avevo la mia definizione, per me la murga è veramente una opera popolare, coi costumi, con il trucco, con la musica, quei couplet che si chiamano, quei pezzi dove più si fa una recitazione, esatto, dopo viene la musica, c'è tutta una struttura sua, la murga uruguayana, e ci si aspetta, insisto, quella critica fa parte inerente della murga uruguayana, uno dei prodotti culturali migliori, direi, dell'Uruguay, senza dubbio, che gli appartiene genuinamente a loro, questo sì, non lo condividono con noi argentini, dico, perché sempre purtroppo ci abbiamo questo rapporto di tantissimo, certo, tantissimo, tantissimo, tantissimo amore, e ogni tanto un pochino d'odio, come corrisponde, però tantissimo amore, perché il popolo più vicino a noi. Noi però... siamo specialisti, non te vergogniamo. No, però... siete 70% italiani, è bello, ma di che te vergogni? E anche loro, è per questo credo che ci troviamo bene. Però abbiamo questo rapporto molto particolare, che è uno dei rapporti, direi, più particolari al mondo, tra due nazioni, tra due popoli. Però dico, questa è una cosa che non condividiamo, che è veramente tutta degli uruguayani, in merito a loro, perché è un prodotto culturale interessantissimo. Avvicinatevi alla murga, qua a Roma trovate in realtà... colpa di questi argentini in giro, trovate più la murga portegna, no? Quella che si trova, esatto, più in giro, almeno a Roma. Se vi pare, non so se vogliamo fare uno stacchetto musicale, se no ci mettiamo direttamente a parlare, Marta, del caso, dicevamo, di Bau. Quindi, sì, ditemi. Hanno chiamato la radio e hanno fatto la domanda di come aiutare a Mario. Allora, perché sicuramente, parlavamo giusto prima. Allora, noi sul nostro blog, allora diciamo, per fortuna ci sono tante realtà qua in Italia che si stanno occupando di Mario, che insomma vi consiglio di andare a vedere le sue foto per capire chi era e come l'hanno ridotto, perché credo che sia importante. Allora, sicuramente sulla nostra pagina Facebook, Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, piuttosto, anzi forse di più, sul nostro blog mapuche.wordpress.com potete trovare, appunto, noi continuiamo a sostenere Mario, e vedo che anche Chile Despertò Italia, appunto, credo che potete raggiungerli sulla pagina Instagram Chile Despertò, sosteniamo Mario, abbiamo bisogno del tuo aiuto, e insomma danno tutta una serie di, potete trovare tutta una serie di indicazioni, IBAN eccetera eccetera, che raccolgono i soldi. Allora, voglio dire, non è che noi si divertiamo a parlare dei soldi, che la compagna mi ha fatto la domanda di dire i numeri. No, non si può. Noi preferiamo non farlo di solito da questa radio. Capisco che la compagna non conosce questa radio, perché evitiamo di, diciamo, ecco, io gli IBAN, allora intanto credo che dare una lunga sequenza di numeri non abbia molto senso, perché tanto chi ci ascolta aspetti che piano, poi ci cominciano a telefonare e noi dobbiamo andare avanti. Noi diamo l'indicazione che sulla pagina Instagram di Chile Despertò ci stanno l'IBAN e i modi in cui si può sottoscrivere. Sì, e se la compagna, c'è anche un'altra domanda: quando suona la musica puoi chiamare e parliamo direttamente. Sì, ecco, che è quello che gli chiedo di fare. Intanto, quindi io direi che, come dice Marta, cioè andate lì, vi diamo i riferimenti. Sì, tanto è inutile che vi diamo un IBAN lungo 15 numeri, perché stiamo qua a mezz'ora. Invece io credo che voi avete una intanto un collegamento diretto con Chile Despertò o con chi volete, proprio. Potete con calma leggervi questa cosa, segnarvi i numeri, che credo che abbia più senso che dirvelo adesso qui al microfono, quindi ecco, e vi potete entrare lì nella storia, che questa è la cosa importante, quindi lì troverete nella storia di Mario, soprattutto delle informazioni in particolare per collaborare, quindi si ringrazia, ma anche addentratevi, perché lì c'è l'informazione, addentratevi, dico, nella storia, esatto, di Mario, per conoscerla veramente. Quindi io metterei un altro brano. Ma potevi pure mettere, ti ho visto, sa? Io ho una canzone del nuovo disco di Cavo Guaccio. No, ridiamo. Lo sai perché? Perché questo sta fricchettone, romantico e innamorato. Però, cioè, praticamente è su un bonbon con pierna. Sta in un momento questa della canzone vita. Si chiama Legalisa. Legalisa! Bene, bene. No, spieghiamo perché lo guarda Victor cercando l'approvazione di Marte, per questo ridevamo. Dai, Legalisa. Legalizzami. Thank you. Dunque, 18:48 minuti. Beh, insomma, ne succedono di cose, ahimè, anche. Infatti, così come vi abbiamo detto, vi volevamo andare a parlare dell'ultimo omicidio, perché insomma vi abbiamo detto che ci sono stati 3 morti per mano della polizia negli ultimi 20 giorni, questo non era contato, ecco, calcolando anche che questi 3 morti per mano della polizia sono 3 persone certe, nel senso che uno è morto suicidato in un commissariato dei più famosi per questo tipo di storie, dei più noti. Uno è stato ucciso per strada come un cane, l'avete visto, mentre faceva il giocoliere. Jack, insomma, si stanno moltiplicando anche sotto la neve di Berlino le manifestazioni degli artisti di strada per non dimenticarlo. E un altro è stato un giovane haitiano che insomma è stato, no, boliviano, che è stato preso, torturato, picchiato, lasciato pensando che fosse morto davanti al pronto soccorso. Insomma, questo tipo di vessazioni poi rispetto ai migranti, insomma, stanno continuando. Oggi anche leggevo di migranti che andavano a chiedere il vaccino, a cui sono stati chiesti i documenti, sono stati denunciati dicendo che i documenti erano falsi, poi non era vero. Insomma, queste costruzioni che i carabinieri di Cile si permettono di fare. E oggi invece veniamo a parlare di una morte di una morte mapuche, di una donna mapuche che stava recuperando insieme a altri compagni della sua comunità un territorio. Lo sapete, insomma, la pratica è quella di tornare sui territori che sono stati usurpati, rubati, e tornare lì a cercare una dignità di vita che da Mapuche non si trova comunque nelle città e comunque nella cultura winca, come si dice, nella cultura bianca, nella cultura del colonizzatore. Quello che è successo il 17 nell'Off Jatskawe. Vi andiamo a leggere il comunicato proprio dell'Off che è uscito immediatamente dopo, perché come vi dicevamo ci sono ancora una serie di punti interrogativi, se non sbaglio, Victor, no? Nel senso che non si capisce se la compagna poi sia morta da uno sparo della polizia o delle guardie private, perché come succede spesso vanno a braccetto finché poi non tocca andare in galera, e allora il gatto e la volpe litigano, non so come dire, no? Sì, la cosa che si deve fare la relazione è che nella zona più troppo vicina di Panguipulli, dove hanno ucciso al compagno, ha successo questo nel lago Riñihue, che è vicino di Panguipulli, che sarebbe la zona dove ha successo questo. E che è da tanto, tra l'altro, che vi parliamo di questa zona, è la zona dove c'è stata l'incursione, insomma è una zona che vive comunque quotidianamente, no? Fatti di repressione. Sì, è l'Off Jatskawe, si chiama questa comunità che ha perso uno dei suoi lamien. Sì, il fatto, scusate, che non si sappia ancora con certezza se è stata una morte provocata dalla repressione delle forze repressive dallo Stato o da un privato dice tanto. Così, un'altra cosa che credo proviamo a far capire sempre su come funziona la repressione contro il popolo mapuche, sia in Cile ma anche in Argentina, sempre coi privati lì, no? Assecondando e protetti dallo Stato, quindi già questo dice tanto. Spero che si sappia, è importante saperlo, però che ci sia il dubbio ci dice tanto della situazione che si vive là in Cile. Sarò come al solito un infame realista, ma a parità di colpa non so perché la guardia privata finisce in galera prima del carabiniero, ecco, insomma, ma questo, no? Senza dubbio, perché comunque poi, ecco, l'istituzione dello Stato è quella che si tocca per ultima. No, perché leggevo, appunto, sappiamo che c'è una guardia privata che è stata fermata dagli arresti, quindi questo anche mi faceva riflettere. Comunque vi andiamo a leggere il comunicato, appunto, a firma il 17 febbraio. La prima cosa che è uscita: come l'Off Jatskawe, vogliamo denunciare che ieri quasi a mezzanotte è stata assassinata dalle guardie di sicurezza del compressorio Rigni Mapu, la nostra Lamnia Nemilia, altri la conoscevano come Bau. È stata uccisa da un proiettile sparatole in fronte dalle guardie di sicurezza del comprensorio, che in quel momento stavano allontanando alcuni campeggiatori che erano lì. che chiedevano aiuto appunto a chi stava recuperando, quindi all'OFF, di fronte alle minacce di questi assassini. Va sottolineato che il comprensorio Rigni Mapu aveva già chiamato le forze di polizia repressive per espellere questi campeggiatori nel pomeriggio e che sono stati loro stessi, guardie e polizia, a autorizzare la permanenza nel luogo. Ecco perché i nostri Pegni e la Mien vengono a chiedere di spettare quanto avevano concordato con i campeggiatori, ma in quel momento che ne approfittano per sparare direttamente al nostro Pupegno e Pugliamien, facendo cadere la nostra amata Emilia. Condanniamo pubblicamente questi sicari comandati da Manuel Garcia, che rappresenta il suddetto condominio, che incolpiamo per questo atto insidioso. Ancora una volta la nostra terra, il nostro Mapu, riceve una giovane Weshafe, un essere bello e gentile, protettrice del Mapu fino al suo ultimo respiro, una sorella che ha messo la sua vita in difesa del nostro Nuke Mapu. Ciao Nghe Chen ti dà il benvenuto accanto ai nostri Weshafe, scaduti nel nostro Wenu Mapu, e da lì ti sollevi come uno spirito guerriero in più del uno spirito guerriero in più del nostro popolo. Chiediamo che chi ha la responsabilità di mettere le armi in mano a certi criminali si assuma la responsabilità dell'omicidio della nostra amata Lamgen Emilia. Giustizia per Emilia, se cade uno, 10 si rialzano. Mari ci weo. Insomma, sì, fa venire i brividi questa storia, perché è una storia spiegabile, appunto. Emilia era andata a chiedere, appunto, tutto si è svolto a mezzanotte, mentre dal pomeriggio, appunto, no, era stata chiamata la polizia perché probabilmente non si volevano intrusi, tantomeno campeggiatori. Insomma, io amo molto questo linguaggio in cui immediatamente una donna mapuche viene riconosciuta a giungersi agli antenati. Una persona che va via, e sarà che questo periodo qua non famo altro, raga, che saluta persone, scusate. Ma insomma, sono belle lezioni anche queste di spiritualità, di tenere subito qualcuno, di vedere qualcuno che ci saluta come un arricchimento delle nostre vite, insieme ad altre grandi nostre persone che abbiamo accanto e che ci ricordano tanti insegnamenti. Metti un po' di musica, va. Questo è Selva Valdiviana di Son Primate. Por acá, ¿y tú qué vas a hacer? Ya por ganar.